fossi yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Forse di mi premura per la mia vettura che nel viaggio via gioie mai dolor dall'ignoranza e dall'ebbrezza, dall'impazienza e da stanchezza. Io te ne prego per tuo amor, libera me, Signore. Scusate, so che l'inizio non è dei più frizzanti, ma a me questa preghiera dell'automobilista fa morire. È una vecchia canzone che scovò in qualche archivio, in tempi remoti in cui il mio tempo veniva trascorso piacevolmente nei sottofondi degli archivi dell'azienda di Stato. Trovai questa preghiera dell'automobilista, era un vecchio disco 45 giri, immagino degli anni 50-60, dove l'automobilista rivolgeva al Padre Eterno la preghiera di assisterlo in questo periglioso viaggio quotidiano. Che nel viaggio dia gioie mai dolor dall'ignoranza e dall'ebbrezza, dall'impazienza. Certo, rileggerlo oggi su una chiave di attualità fa sorridere, dall'ignoranza e dall'ebbrezza, ma come? L'automobile è il ricettacolo della nostra peggiore ignoranza. Ricordate, noi facemmo tempo fa una trasmissione su come ci trasformiamo appena entriamo e attraversiamo lo Stargate dello portello della nostra automobile, entriamo in un altro ambiente, in un'altra dimensione, siamo qualcos'altro. Esiste un isolamento spazio-temporale con tutta la nostra dimensione esistenziale precedente. Cosa diventiamo? Diventiamo, se possediamo un SUV, dei sovrastatori degli esseri umani e dei giganti con delle formichine che ci camminano accanto, poveri, pezzenti, disgraziati, con dei catorci piccolissimi, possiamo schiacciarli sotto i cingoli del nostro carro armato. Se abbiamo una macchina veloce, diventiamo scattati. Tanti, forti, dei centauri, dei mostri. Diventiamo tutt'altra cosa e poi diventiamo aggressivi. Io la mattina, quando mi sono convertito alla religione della metropolitana e degli autobus, vedo con commiserazione ma con pietà, perché noi siamo molto pietosi nei confronti dei nostri ex compagni di tossicomania, nelle code ai semafori queste persone imbufalite, arrabbiate, queste signore che si truccano davanti allo specchietto, questi signori in gessato e in cravatta col colletto alto che si ravano le caccole dentro le narici del naso e stanno lì impassibili, pronti a pigiare il clacson appena un attimo c'è un'incertezza. Questo dimostra che in realtà gli italiani diventano qualcos'altro, hanno una doppia vita, hanno una doppia personalità, una sorta di salubre schizofrenia, dico salubre perché gli permette di avere perlomeno per una decina di giorni all'anno la sensazione di essere qualcosa di diverso rispetto alla misera condizione umana che contraddistingue il loro quotidiano. Ho detto non a caso 10-11 giorni all'anno perché è stata fatta un'inchiesta dal Codacons su quanto trascorrano di tempo gli italiani in automobile. È venuto fuori che di media tra Napoli, Milano, Roma, le maggiori città italiane, la media è di 10-11 giorni all'anno. 10-11 giorni all'anno gli italiani li passano in automobile. Un'altra indagine che ha fatto nel 2009 l'Automobile Club d'Italia dice più o meno le stesse cose, che un automobilista passa un'ora della propria giornata in media nel percorso casa-ufficio, casa-luogo di lavoro, casa e qualunque posto dove vada a sbattere le corna. Un'ora al giorno sta dentro l'automobile, perché tanto tempo sottratto alla gioia, alla felicità, alla famiglia, alla lussura, all'adulterio, tutto quello che volete, sottratto stando chiusi dentro un'automobile. Cosa accade dentro quell'automobile? Cosa fate voi quando siete chiusi lì dentro? Immaginate che una fetta preponderante della vostra vita passa rinchiusa dentro quella scatola meravigliosa di latta, un ambiente stupendo, climatizzato, sonorizzato, comodissimo, iper profumato, quindi la sinestesia appagata con Arbre Magique, profumatori, antipiede, c'è di tutto in quell'automobile. Beh, come passate le vostre 10 ore all'anno dentro la vostra automobile? Io uso la macchina per lavoro, ho un cane che è sempre con me e ha percorso in 8 anni 600.000 chilometri. Giriamo tra alberghi e località. Siamo l'unico popolo al mondo che usa chiamare l'automobile macchina. Io faccio 70.000 km all'anno in macchina e diventa quasi una droga, è una necessità assoluta di avere quell'angolo, quel momento dove poter pensare in macchina. Io guidando un'altra macchina, o paradossalmente la macchina di mia moglie, quasi risulto essere imbranato nella guida. Non riesco ad essere così sicuro come sto in effetti sulla mia. Go, go, go, go. 800 24 00 24, cominciate agendo sul vostro viva voce, agendo sul vostro tom tom che ha la funzione naturalmente viva voce, agendo sul vostro auricolare, agendo sul vostro telefono portate, o fate la schifezza che vedo fare continuamente quando vedo signore arrabattate al loro telefonino, comunque al semaforo, in coda, incuranti totalmente dei pedoni, di chi passa avanti e dietro, arrabbiate, estraniate. Ma io le capisco, le comprendo, sono così poche le occasioni di fuga dal mondo che questa automobile diventa una piacevole e anche perniciosa per chi sta all'esterno macchina per fughe domestiche. Beh, questo fatale nome richiamerà un grande immaginario legato agli ascoltatori di Melog, ma legato anche a un'idea ricorrente che serpeggia attraverso le nostre trasmissioni: le possibilità di fuga quotidiana. Esistono i meccanismi propri, impropri, onirici, surreali, concreti per fuggire dal quotidiano. L'automobile è uno di questi. Apparentemente è un mezzo di trasporto, apparentemente è uno status simbolo, apparentemente è un utility al vivere quotidiano, ma in realtà è una maniera per fuggire dal quotidiano. Questa mattina, per parlare di automobili, di automobilismo, di tempo passato in auto, ho un ospite altamente competente che è Riccardo Alemanno. Alemanno, buongiorno. Buongiorno a te Gianluca, a tutti gli automobilisti a questo punto. Riccardo Alemanno è direttore dell'Automobile Club d'Italia. Adesso di Roma, direttore dell'Automobile Club di Roma, è più conosciuto probabilmente come cantautore dal nostro pubblico, come autore di macchine per fuga domestica, ma in questo caso dirigendo l'Automobile Club romano, come esperto. Riccardo, riguardo ai dati che abbiamo appena elencato, ci puoi dare qualche aggiunta e qualche specifica? Sono abbastanza inquietanti, perché 10 giorni all'anno sono tanti passati in automobile. Beh, la statistica è del 2009, appunto, pare che i romani siano i cittadini che passano più tempo in auto, sono 503 ore di ore ogni anno, di cui, e questo è il dato inquietante, quasi la metà, 252, i famosi 10 giorni, virgola, dispari, 10-11, in code, in ingorghi. Quindi praticamente il romano è un automobilista che si presta anche a una tortura, si presta, tutto sommato è costretto a vivere in mezzo a ingorghi. Ecco, la percezione è, Riccardo, che in realtà nessuno pensa delle alternative o immagini delle alternative. Tutti si lamentano, tutti sono nevrotici, tutti una volta scesi dicono mai più, che vitaccia, che schifo, ma tutti non vedono l'ora poi di riusare lo stesso mezzo, la stessa modalità per tornare a casa. Quindi ricompiere quel rituale, se vuoi negativo, ma se vuoi anche una possibile maniera per astrarsi dal mondo, per rimanere soli, per fare quello che non si farebbe in altre occasioni, in altri tempi. Ed in effetti, benché l'auto si invochino appunto alla costrizione che hanno gli italiani, i romani, gli italiani, a dover vivere e passare del tempo dentro l'auto come una sorta di tortura, di tempo coartato, in realtà agiscono certamente dei problemi infrastrutturali, ma sostanzialmente l'italiano è sempre legato all'uso individuale del mezzo. Perché, per esempio, ci sono esperienze che nascono in Svizzera, come quella del car sharing, cioè l'uso condiviso del mezzo, oppure il carpooling. Ecco, come funzionano queste modalità che sembrano appartenere a civiltà che lontane anni luce dalla nostra? Per dire in estrema sintesi, sono delle modalità nelle quali non vi è l'accentramento del veicolo, cioè il possesso e la proprietà del veicolo da parte dell'automobilista, ma l'automobilista utilizza un servizio di mobilità. Quindi non lega lo spostamento al possesso, alla titolarità di un'automobile. Beh, qui si rompe però il rapporto viscerale, quasi sensuale con la propria automobile. C'è una violazione dello spazio privato, almeno nella mentalità dell'automobilista medio. Certo, perché l'automobile è diventata praticamente una casa che ci portiamo. Tu dovresti far sedere i culi stranieri sulla prestigiosa tappezzeria della tua automobile. Quando tocca la carrozzeria della nostra auto, in fondo molto spesso ci sentiamo come se ci toccassero qualche parte. Sì, come ci toccassero la moglie, la peggio moglie, ancora. Certo. E quindi questo sicuramente, chi lo sa, è una, ha forse una matrice sicuramente culturale. Probabilmente l'Italia è uno stato che è arrivato un po' tardi alla ricchezza, al benessere, quindi è legato alla proprietà dell'auto. E fatto sta che cresce il tempo speso in auto. C'è stato una bella, un bello studio che ho avuto la possibilità di avere, che ha preso dati appunto dal rapporto automobile 2008 ACI Censis, per cui il circolante continua a crescere, le seconde auto continuano a crescere, sono, mi pare, circa un'auto ogni 1,4 abitanti, più 11 milioni di moto e motorini, e il 15% delle famiglie hanno più di un veicolo a motore, quindi nemmeno spesse volte per un secondo mezzo si utilizzano queste forme condivise di automobile. Quindi in realtà queste forme condivise, tipo il carpooling, il car sharing, cioè l'uso condiviso, dovrebbe almeno sostituire la seconda auto, cioè non è chiaramente, non nasce per sostituire il primo veicolo. Diciamo, la prima gli lasciamo questo allone di sacralità e intoccabilità, è la macchina bella, ma la seconda macchina, quella di tutti i giorni, potrebbe essere condivisa con dei colleghi d'ufficio, con persone che fanno il nostro stesso tragitto, e si ingolferebbero meno le strade. È vero, invece lì cadono gli alibi dell'automobilista italiano. In effetti l'automobile non si tocca. Cominciamo a sentire degli ascoltatori. Riccardo da Vigevano, buongiorno. Buongiorno. Lei la metterebbe in società la sua automobile con altri sconosciuti? Assolutamente no. Vede. Assolutamente no. In quanti siete in questo momento? C'è quello che... In quanti siete dentro l'automobile? Io sono da solo, come tutti i giorni. Naturalmente. Ma si rende conto? Le mie due ore e mezzo me le faccio tutti i giorni. Cosa fa in queste due ore e mezzo dentro l'automobile? Quindi due ore e mezzo andare, due ore e mezzo a tornare? No, due ore e mezzo in tutto. In generale, due ore e mezzo della sua giornata passa dentro l'automobile. Dentro l'automobile. Quindi in realtà è come se fosse un'altra stanza del suo appartamento. È un'altra stanza, climatizzata, come diceva lei, profumata. Sonorizzata. Con i miei dischi preferiti, con le mie trasmissioni radio preferite. Se sono a Passo Duomo oppure in colonnato, leggo. E quindi legge il giornale o libri? Libri, soprattutto, perché in macchina sono più facili da gestire. Eh sì, certo, naturalmente. Sul volante. È più comodo. Mentre il giornale è un po' problematico. Senta, invece con il navigatore che rapporto ha? Strumentale. Lo uso il meno possibile, però siccome sono un venditore, mi è molto utile, mi fa risparmiare parecchio tempo. Che voce usa? È quella che c'è registrata. Ah, quella base? Sì. Una signorina con la voce sodente. Grazie, Mauro da Milano. Sì, pronto. Buongiorno, Mauro. Buongiorno. Lei quanto tempo passa in automobile? Adesso, dicevo, due ore e mezza ogni giorno. Un'ora all'andata la mattina e un'ora e mezza al ritorno la sera. Ecco, descriva il luogo in cui passa queste due ore e mezzo quotidiane. Dunque, la mia macchina, una macchinina piccolina però molto bella, tenuta bene, mi piace, me la pulisco. È il mio ambiente dove ascolto la radio più che volentieri, tant'è vero che la sera ascolto sempre Radio 24 con gli andamenti della borsa al ritorno. Non posso che lodare questa sua abitudine. Cosa? Non posso che lodare questa sua abitudine. Ah, sì, grazie. Però niente, l'ho riscoperta, perché io prima abitavo a Milano e lavoravo a Milano e non usavo la macchina, o quantomeno la usavo ma giusto per un quarto d'ora, sì e no. Ho riscoperto questo piacere della guida, perché, oddio, per carità, a me piace guidare, se fossi uno a cui non piace guidare molto probabilmente non, ecco, immagino che lei intervenuto. Seguirà anche i suoi pensieri in queste due ore, perché due ore sono tante. Sì, sicuramente è un momento dove veramente mi ritaglio due ore della mia giornata, dove non c'è moglie, non ci sono figli, non c'è ex, guardi, è quasi bello. Quindi la domanda è persino inutile, lei non dividerebbe mai questo tempo, questo spazio con altre persone per razionalizzare il traffico? Assolutamente, la macchina poi no, la macchina non la cederei in nessun caso. Grazie, buongiorno. Riccardo Lemanno, un commento a queste due telefonate che mi sembrano il campione classico della vostra indagine. Eh beh, queste rispecchiano proprio il fatto che, se pensate che dal 2004 al 2008 i chilometri medi percorsi al giorno sono passati da 22,3 a 40, gli spostamenti quasi tutti si svolgono entro 50 chilometri, è cresciuto il circolante, quindi è cresciuto il ricorso proprio degli italiani all'utilizzo dell'auto individuale. Però hai notato, Riccardo, nessuno lo sente con rammarico, nessuno ha l'impressione di perdere tempo, il Codacons dice perdete 10 giorni all'anno, rendetevene conto, ma questi signori, perlomeno nella loro testimonianza, guadagnano 10 giorni di libertà all'anno, libertà dal mondo, libertà dai vincoli, libertà dalla famiglia, 10 giorni di isolamento spazio-temporale dalle insidie del quotidiano, ti rendi conto? E qui Gianluca mi viene facile dirti che tu sei maestro nel parlare di protesi emozionale, l'auto è diventata la protesi delle protesi, perché dentro ci sono, come tu sai, dai telefonini, diventa una discoteca, diventa la radio, anche la televisione. Quella... È come un'astronave, un luogo di massima espansione di se stessi. 800 24 00 24, chiamatemi, cosa fate dentro la vostra automobile, quanto ci state, quanto vi dà gusto starci. Bella, sei la più bella del mondo, ti avevo rapito, mi hai fatto stare tanto in pena, ho tanto sofferto per te, sai, che t'hanno fatto, t'hanno fatto del male, fatti vedere, fammi vedere se viene le sgraffi, che? Te l'hanno riportata la Jaguar tua, Sei contento? E sono contento, sì. Tra le tante possibili paradossali espressioni dell'italiano medio di Alberto Sordi c'è anche quello dell'amore viscerale, sensuale e lubrico quasi per la propria automobile, ma che in fondo viene stato già espresso ampiamente dalle prime telefonate, ne vedo già tantissime in attesa, ma anche su Facebook vedo una fiorita rassegna di confessioni di innamoramento per la propria automobile. Non voglio qui reprimerlo, figuriamoci se pongo questa mattina il moralismo nei confronti dei rapporti uomo-macchina. So che ci si può esprimere sensualmente in tutte le direzioni, anche quello nei confronti in automobile. Emanuela dice: con difficoltà riconosco la mia auto parcheggiata, figurati che schiavitù. È una naturalmente propugnatrice della castità nei confronti dell'automobile. Claudio dice: è un argomento interessante, uno strumento che costa parecchio, che ci dà stress, noia, angoscia, a volte anche la morte, eppure ancora non se ne può fare a meno. Come una seconda casa, un rifugio, uno dei pochi momenti di reale solitudine, dice Tullio. Poi Manuel, nella mia macchina posso fare quello che voglio, anche fantasticare, un viaggio impossibile, poi la riempo con tutte le cose che mi piacciono. E sì, ci sarebbe un elenco di cose che piacciono che riempiano le automobili, dai cagnolini che muovevano la testa, che furono il fulgore degli anni 60, alla manina che saluta, agli adesivi, al peluche che ricopre il volante, alle calamite con i figli, la moglie, San Cristoforo, Padre Pio, chi più ne ha più ne metta. Eric, buongiorno. Buongiorno. Io in questo momento sto andando verso Padova e utilizzo una macchina aziendale perché faccio un lavoro che mi porta qualche volta a spostarmi e utilizzo l'automobile effettivamente come una stanza aggiuntiva della mia casa e in particolare la utilizzo per fare tre cose. Allora, siccome sono un amante della musica... Speriamo che si possano raccontare tutte e tre alla radio. sì, tutte e tre sicuramente. Beh, allora, sono cose... Vabbè, ascolto tutte le novità discografiche che ho acquistato recentemente, insomma Quindi è la sua sala d'ascolto, il suo auditorium privato. Sì, sostanzialmente sì, perché poi a casa ci sono tra la famiglia. Sì, che è una cosa impossibile, figuriamoci. C'è un sovrapporsi di ambienti sonori che impedisce la tranquillità e l'isolamento. Seconda cosa piacevole. La seconda cosa è che medito sostanzialmente magari su problemi di lavoro oppure questioni familiari, penso e penso delle soluzioni. Insomma, è un fa il punto sulla sua vita. Sì, sulla mia vita o su quella degli altri, diciamo, persone amate, persone che mi fanno vicino. Attenzione a non spiaccicarsi addosso agli altri, sennò fa il punto sulla vita degli altri in senso finale. Sì. Terza cosa? La terza cosa è che effettivamente lo utilizzo anche per ascoltare Radio 24, nel senso che al mattino... E questa ce l'ha aggiunta per arruffianarsi, è vero? No, No, no, è vero, perché al mattino sono praticamente sempre, costantemente bloccato al casello di Sesto San Giovanni, che è un inferno, come molti sanno, e è l'occasione di sentire, per esempio, la trasmissione di Oscar Giannino, che altrimenti non potrei ascoltare. Prima facevo un lavoro più sedentario. E comunque. Ma in questo momento sta guidando in automobile? In questo momento sì, sto andando verso Padova. È dotato di viva voce o...? Sì, sì, ho il Bluetooth. Ah, perfetto. Vabbè, in bocca al lupo, buon viaggio. Alessandro. No, Alessandro ci ha parlato. Domenico. Ciao, buongiorno a tutti. Chi sei? Domenico. Ah, Domenico, sì. Volevo dire che l'auto era la mia personalità e il mio modo di vivere, solo purtroppo ho litigato di brutto. Sono 3 anni che ho comprato una moto perché... in pratica io accompagno mia figlia a scuola, solo per accompagnarla ci impiego dai 40 minuti, in moto invece ci impiego dai 5 ai 7 minuti. Poi la moto mi ha permesso di capire che gli spazi si accorciano tantissimo. Ipotesi, mi devo spostare, ci impiego la metà del tempo. Quindi ho ritrovato di nuovo in me stesso la serenità e la tranquillità. Viaggio anche sotto la pioggia, ho tutto per la pioggia, quindi non me ne sono assolutamente pentito e sono contento di aver litigato con l'auto. Ma in questo momento non stai in motocicletta? No, sto in moto. Ah, sta parlandomi dalla moto? Sono fermo. Ah, ecco, perché non sentivo il vento, non sentivo il motore, non sentivo nulla. Sì, sono in moto col casco e sto parlando col viva voce del casco. Rimetta in moto, senti il rumore della moto che parte, perché sì, sennò sì, non sì, mi fido. Sì. Sennò potrebbe essere una simulazione. No, anche perché avendo avuto un'auto bossa di cilindrata, pagavo sia di tasse di possesso e di... Vabbè, adesso è ripartito? Onestamente l'ho venduta molto molto volentieri, mi sono liberato prima di tutto però per avere degli spazi miei molto più brevi e poi dopo è venuto anche il fattore economico. Va bene, sono contento per lei, riparta tranquillo e felice. Riccardo Alemanno, direttore dell'ACI di Roma, facciamo un punto intanto su queste prime due telefonate, ne stanno arrivando tantissime. Abbiamo toccato un punto nevralgico, il tempo passato in auto è come avere una seconda casa, come avere un'alcova, come avere un rifugio dal mondo. Certo, però bisogna dire adesso, tocca anche vedere anche l'altra faccia della medaglia, cioè questo individualismo, questo uso dell'auto compulsivo, in cui nell'auto si può telefonare, si accende la sigaretta, si fuma, si fa, si vive una seconda vita, pur se con vedi trasparenti, porta anche a sempre nelle città a problemi di incidentalità stradale, che è vero stanno diminuendo, perché nel 2007 le vittime erano più di 5.000, adesso pare che nel 2008 siano un po' più al di sotto, però l'Automobile Club Roma e d'Italia ha sostenuto moltissimo questo, la prestare attenzione proprio ad evitare la guida distratta, perché è dalla distrazione che nascono anche tanti incidenti, quindi questo è il secondo, è la faccia opposta della medaglia, nel senso l'auto è un luogo di libertà, di espressione della propria individualità, ma al tempo stesso questa espressione ci tende a isolare dal mondo esterno. E del resto tu stesso... Pensa, mi sta scrivendo adesso Rosarita per far capire quanto sia consapevole questo senso di isolarsi. Cioè, come mai in automobile tutti sentono autorizzati a mettere il dito nel naso? Sembra una banalità, come se nessuno li vedesse, ma in realtà fare un gesto che in realtà è un gesto intimo e maleducato e farlo continuamente e diffusamente in auto è veramente significativo del fatto che chi sta dentro pensa che il mondo fuori non esista, non lo veda, quando in realtà vedono tutti benissimo. È vero, è come se i vetri non esistessero in realtà. Ma in effetti poi comunque bisogna anche sostenere tutto questo, lo so che il lato più come dire, scenografico è divertente, però ecco, bisogna anche sottolineare che è necessario poi spingere verso un uso condiviso del mezzo, verso il ricorso ai mezzi pubblici, perché comunque le strade sono decisamente, come dire, intasate. E... Ma non pensi, Riccardo, vedi, giustamente l'ACI fa delle campagne, fa dei corsi, fa delle grandi iniziative, pone i dati, noi stessi cerchiamo di sensibilizzare. Alla fine, pur tutti sapendo che sarebbe giusto che l'automobile fosse condivisa, che sarebbe giusto prendere i mezzi pubblici, che è folle stare le ore nelle file, che siamo tutti più cattivi, denunciano candidamente, confessano che in fondo è un piacere, è l'unico momento che ci permette il quotidiano, la società, il mondo per come è strutturato, di stare soli con le cose che ci piacciono. Certo, però bisogna rispettare anche gli altri, perché ti piace l'immagine della strada come arteria e della doppia fila come colesterolo? È una macchina che si parcheggia in doppia fila, toglie una corsia, quindi questo tempo che si passa nell'auto deriva anche da queste cose. Poi chiaramente noi facciamo dei corsi di guida sicura bellissimi al centro di Vallelunga che aiutano anche a imparare, diceva il nostro ascoltatore, la guida sul bagnato, io vado anche sotto la pioggia con la moto, eccetera, però bisogna stare sempre molto attenti perché nella città avvengono proprio il maggior numero di vittime, proprio sono nella città, quindi diciamo l'individualismo... Cioè gli incidenti più diciamo pericolosi sono quelli che avvengono in città? Beh sì, l'ACI tra l'altro sta facendo una campagna sull'attenzione verso i pedoni, perché ogni anno nella provincia di Roma ci sono 60 pedoni deceduti, anche coinvolti, 285 vedo, insomma c'è mancato rispetto anche verso gli altri utenti della strada, che non è solo riservata chiaramente alle automobili. Cioè questo piacevole isolamento non significhi non rendersi conto che intorno uno degli esseri umani. Guarda, la distrazione, certamente la guida in stato d'ebbrezza è assolutamente da censurare, eccetera, però la distrazione costituisce comunque la maggior causa degli incidenti. Sentiamo Anna. Anna, buongiorno. Sì, buongiorno. Oh, ecco finalmente l'altra faccia della luna che comincia a raccontarci la sua esperienza in auto. Io convivo con l'auto da quando l'ho preso la patente, perché io ho uno studio di pubblicità e sono sempre in giro per i clienti e noi siamo specializzati nella distribuzione di materiale, perché io giro da tutte le parti e raccontavo prima addirittura che io, lavorando diciamo fino alle 2 del pomeriggio perché poi ho la bimba, io mangio in auto e ho passato anche un periodo che era anche la domenica, io andavo a giro, approfittavo quando ho la bimba a giro in auto e si mangiava il panino in auto anche la domenica. Che però non bisogna farlo, è come telefonare col telefonino, avere uno sfilatino in mano è altrettanto pericoloso. È vero, specialmente se c'è roba buona dentro. Però per lei si trucca pure in auto, signora? Sì, io il rossetto, insomma il lucido me lo do al semaforo e poi non sono una che si trucca tantissimo, quindi magari la svintagliata della terra, diciamo, del card, sì. Uguale al prossimo semaforo che si ferma, leggo il giornale tra il benzinaio. Le unghie no però. Lo smalto no, però se mi si scheggia c'ho la limetta incastrata e io sono super accessoriata. È vero, la macchina per me è la seconda casa. Qui si porta anche abiti di ricambio, si può cambiare, fare di tutto. Sì, perché io ho i cavalli e quindi quando il giorno devo montare muovo i cavalli, mi cambio, cioè magari mi fermo a prendere un caffè. E cosa fa? Si chiude dentro il cofano, come fa a cambiarti? No, mi fermo a prendere un caffè. Ah, scende con le stampelle? La bimba si cambia, mentre io guido, lei tra un semaforo e l'altro si cambia, si mette i pantaloni, insomma sì. Insomma, è un mini appartamento, è cosa sua? Appartamento. Va bene, sì. Grazie, buon viaggio e state bene a casa vostra. Con l'ultima telefonata abbiamo aperto una nuova e interessante parentesi, le italiane e l'automobile. Riccardo Lemanno, direttore dell'ACI di Roma, avete qualche dato voi all'Automobile Club sull'autista femminile, sulla guida femminile, sul rapporto donna e automobile? Certo, spezziamo una lancia a favore delle donne. Allora, dunque, innanzitutto la percentuale di maschi che hanno perso i punti è del 20,6%, molto più superiore rispetto a quella delle donne che è il 9%. E sempre questo studio che ho fra le mani parla appunto dei conducenti di autovetture coinvolti negli incidenti sono per il 70% uomini e 30% donne. Quindi la donna forse ha un approccio più razionale, freddo nei confronti dell'auto, le interessa la parcheggiabilità, la maneggevolezza, l'economicità, invece l'uomo sogna l'auto potente e veloce col suo approccio istintivo. Magari la donna dimentica di lavare la macchina, dimentica di controllare la pressione delle gomme e in media quante volte lava la macchina nella sua vita una donna? Vedo che avete dati molto molto particolare. Dunque, allora, il 13,3% mai. E quindi? Mai. Invece l'uomo il 4,5% sì, e ti fa vedere anche la differenza. Le cose più triste sono quelli che approfittando la domenica vanno alle fontanelle pubbliche con il secchiello, facendo finta di nulla, si tolgono la giacca con una spugnettina minima, pezzo per pezzo lavano tutta l'automobile. Ce n'è una meravigliosa tra Via Nomentana, angolo Montesacro, resa celebre questo incrocio, no? Con gli ometti che lavano le macchine. Con una fontana, con una sone che però ha anche una vasca, quindi permette di lavare i tappetini. L'acqua non ci costringe a mettere il secchio sotto la... No, ma gli specialisti che vedo io nel quartiere Prati sono bravissimi, perché fingono di fare tutt'altra cosa. Si tolgono la giacca, hanno sempre camicia e cravatta, e con una spugnettina veramente schifosa, piccolissima, centimetro per centimetro, ci passano 6 ore, la lavano tutta, tutti contenti che hanno lavato con la macchina pelle di daino. A sbafo, sì. Ad ogni modo il 40,4% dei maschi la lava almeno una volta al mese. Ma questo è, io sono fuori la media. Io la mia auto a 13 anni io non l'ho mai lavata con le mie mani, ma l'ho portata all'autolavaggio 5 volte. Sì, anch'io, devo confessare. No, è interessante perché si ricopre di guano adesso in questa stagione che passano gli storni. Poi viene poi la stagione delle piogge e la crosticina di ghiaccio stacca tutto il guano e ritorna bella, carina come era prima. Certo. Nadia, buongiorno. Buongiorno. Vediamo se lei conferma le statistiche. Quante volte ha lavato la sua automobile? Allora, quella attuale l'ho lavata un paio di volte appena comprata, giusto perché era nuova e volevo trattarla bene, ma adesso sono circa un anno e mezzo che mi ripropongo di lavarla, ma non ci penso nemmeno. È come un coniuge, diciamo la verità, ai primi tempi uno lo accarezza, lo sì, coccola, esatto. Poi lo lascia da una parte così. Sì, sì, sì. A volte mi vergogno a far salire persone che so che tengono l'auto molto bene, allora cerco di dare una spolveratina prima che salga qualcuno, però poi... Ma guarda, io penso che nel sedile posteriore della mia automobile ci siano ancora le crosticine di biscottini Nipio alle mie figlie a 14 anni, quindi pensi un po'. Sì, in quella precedente, sì, adesso i miei figli sono grandi, e vabbè, sì, Coca-Cola, birra, sicuramente. Quindi è uno schifo, come tutte le macchine, le persone intelligenti, dentro abbastanza zozzo. Sì, sì, allora mi consolo, anzi mi consola a saperlo. No, però lei passa in questa concimaia quanto tempo al giorno? Abbastanza, perché io abito fuori Milano, lavoro di sera, per cui passo circa 2 ore, 2 ore e mezza tutti i giorni, a volte di più perché proprio per raggiungere uffici e cose varie dei figli devo usarla di più. Ma quando esce naturalmente è profumata, elegantissima, bellissima. Io? Dipende. Come fa a non essere contaminata dallo schifo della sua automobile? Come fa a non essere contaminata? Cioè, io molte volte temo per i miei abitucci della domenica, quando devo andare da qualche parte, se entro in macchina devo mettere sotto, non so, un giornale, qualcosa, se no temo di sporcare. Sì, sì, sto un po' attenta, certo, vabbè, non è proprio così zozza perché ha solo 2 anni e mezzo la mia macchina, per cui non è ancora così ridotta, però no, io sì, come la signora che mi ha preceduto, anch'io molte volte mi trucco, ho la pinzetta se mi dimentico non riesco a farlo a casa. Per depilarsi? No, pinzetta per le sopracciglia. Ah, scusi, no, non ho molta. Perché quando sono in fila ogni tanto tiro giù la visierina davanti dove c'è lo specchietto e controllo. Questa è la maniera migliore per spiaccicare qualche pedone, però di questo ne è consapevole. No, ma quando sono ferma riesco anche a schiacciare un pisolino, perché ho una vita molto frenetica e sono sempre molto stanca. E molte volte non vedo l'ora che ci sia una fila per chiudere un attimo gli occhi, 3 secondi, risvegliarmi e partire, ma rigorosamente la ferma, lo faccio, ovviamente. E metto la macchina in folle, spero. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. E non vedo l'ora di salire in macchina, e non è una ruffianeria, ma non vedo l'ora di salire in macchina e accendere la radio, perché io in casa non riesco mai a farlo. Ma questo ci fa molto piacere, grazie, vedo che in fondo ha avuto senso fare questa trasmissione. Olga. Buongiorno. Allora, io uso la macchina per fare la tassista, accompagno i miei figli, accompagno i miei genitori, vado a prendere mio fratello e mi piace tantissimo. E quando ho avuto il primo figlio... È ben tenuta la sua macchina? Ma no, non la laviamo mai, però non è così sporca. Cioè è ben tenuta, controlliamo spesso il motore, cambio le ruote, eccetera. Ma rispetto alla pulizia, in tutta la mia vita l'ho portata una volta a lavare, una volta l'ho lavata io. Non questa ovviamente, la prima macchina che ho avuto. Quindi comunque un ambiente... Lei non tollererebbe di avere il pavimento con un granellino di polvere a casa, ma... Ma no, no, no, io anche a casa, devo dire. Ah, quindi lei è di natura... No, non sono sporca. No, no, guardi, ognuno è quello che vuole. Sì. non voglio dire. Comunque no, macchina non mi viene neanche in testa di lavarle. Quando ogni tanto, ad esempio, mio padre dice: ma che macchina sporca hai? Ma a me sembra proprio una perdita di tempo. Lei dice: io sono pulita dentro, risponde così. Sì, ma vabbè, farò così. Comunque volevo dire questo, io ho visto tante volte i genitori, e mi ero lasciata condizionare, che cercano sempre qualcun altro che accompagni i figli. Quando un primo figlio ha compiuto 18 anni e ha detto: beh, adesso vado da solo. Beh, poverino, è anche ora, sì. Io mi sono detta: oddio, allora non staremo mai più insieme lui e io a chiacchierare. E allora col è riuscito a scappare suo figlio, sì. Oh, sì, la sera stessa mi ha dato lui un passaggio. No, io non sono una mamma. E lei presterebbe la macchina a suo figlio diciottenne, sì? Certo. È chiaro che, certo, gliel'ho sempre prestata. Quello diciottenne gliel'ho sempre prestata, adesso ha 23 anni e la usa tranquillamente. Però io mi godo moltissimo quando lo vado ad accompagnarli, li vado a prendere, chiacchieriamo. È stato un momento della vita che mi sono goduta tanto. La ringrazio, il suo godimento e anche il nostro godimento. Riccardo Alemanno, direttore dell'ACI di Roma. Solo una battuta che stiamo chiudendo. Cosa ti fa pensare questa ultima ascoltatrice? In fondo conferma quelli che sono i vostri studi e le vostre analisi. Li conferma, però conosco delle persone che sono delle ragazze, delle donne che guidano la macchina anche per il piacere della velocità e con i loro 160-170 cavalli, quindi non è una cosa. Ma dove vanno? A Vallelunga, giusto? Perché sarebbe bene andare lì a farsi un bel corso di guida sicura. Sì. Farebbe bene. Grazie Riccardo Alemanno, grazie all'ascoltatrice, grazie alle automobili che permettono che la nostra voce sia sentita e moltiplicata nelle orecchie dei nostri ascoltatori. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Radio 24. La passione si sente.